122. Salsa di magro per paste asciutte. Questa salsa, se mi fosse lecito fare un paragone tra i due sensi della vista e del palato, la rassomiglierei ad una di quelle giovani donne la cui fisionomia non avventa né vi colpisce, ma che, osservata bene, può entrarvi in grazia per suoi lineamenti delicati e modesti. Spaghetti grammi 500, funghi freschi grammi 100, burro grammi 70, pinoli grammi 60, acciughe salate numero 6, pomodori numero 7 o 8, un quarto di una grossa cipolla, farina un cucchiaino. Ponete in una cazzaruola la metà del burro e con esso rosolate i pinoli, levateli asciutti e pestateli in un mortaio con l'indicata farina. Trinciate la cipolla ben fine, mettetela nell'intinto rimasto e quando avrà preso molto colore, buttateci i pomodori a pezzi, conditeli con pepe e poco sale e quando saranno cotti passateli. Rimettete il sugo al fuoco con funghi, tagliati a fettine sottili, non più grandi di un seme di zucca, la pasta dei pinoli che prima potete sciogliere con un po' d'acqua e il resto del burro. Fate bollire per mezz'ora, aggiungendo acqua per rendere la salsa più liquida e per ultimo sciogliete le acciughe al fuoco con un poco di questa salsa, senza farle bollire, ed unitele alla medesima. Levate gli spaghetti asciutti, conditeli con questa salsa e se li volete migliori aggiungete del parmigiano. Bastano per 5 persone.